America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. We are coming on the air right now because ABC News can now project that Republicans will take control of the Senate. Beh, la notizia la conoscete, grande rivoluzione politica negli Stati Uniti, ne abbiamo parlato nella notte americana quando abbiamo seguito da New York, dalla redazione, quello che stava capitando in queste elezioni del midterm. I repubblicani hanno riconquistato il Senato, è la prima volta in 8 anni, soprattutto hanno inflitto una dura umiliazione ai democratici e alla presidenza Obama. Vediamo i numeri: i repubblicani avevano 45 seggi al Senato, in minoranza contro 55 dei democratici, adesso sono passati a 52 seggi, ma per dicembre forse ci sarà un altro risultato, potrebbero ancora aumentare. Hanno rafforzato le posizioni alla Camera, arrivando addirittura a 240 seggi contro i 226 della precedente legislatura, e anche lì a conti fatti su alcuni dei seggi ancora incerti. Pensate, se dovessero toccare i democratici quota 245, beh, avrebbero la maggioranza più vasta dai tempi di Truman. Ecco, c'è una cosa, devo dire, che mi colpisce dopo aver seguito nella notte queste elezioni, e cioè che l'America è stanca e preoccupata, ma è vitale nella sua espressione democratica. Cambia rapidamente nel momento in cui si rende conto che le cose non vanno, nel momento in cui è scontenta. Questo voto è stato un voto di protesta nei confronti di Barack Obama, che come presidente degli Stati Uniti impersonificava un po' tutte quelle che potevano essere le insoddisfazioni che conosciamo. L'economia va bene, il costo del carburante ai distributori è crollato, l'occupazione è risalita, ma il segnale del malessere degli americani lo abbiamo proprio da questo risultato elettorale, che ci conferma quanto la classe media sia in crisi, quanto è chiaro, devo dire, come i repubblicani potranno raddrizzare la situazione, ma intanto promettono e vincono. Tocca a loro, e per questo l'era di Obama ufficiosamente è finita ieri, 4 novembre. Sentiamo Mitch McConnell, il senatore del Kentucky, sarà il nuovo capo della maggioranza al Senato. And look, when you get right down to it, that's what this campaign was really all about. It wasn't about me or my opponent. It was about a government that people no longer trust to carry out its most basic duties. Ecco, McConnell dice: se guardiamo all'essenza di queste elezioni, la vera campagna non ha riguardato me o il mio sfidante, ma un governo che non ha più la fiducia del paese. Troppo a lungo questa amministrazione ha cercato di dire agli americani quello che è bene per loro, per poi incolpare qualcun altro quando le politiche non funzionavano. Questa notte il Kentucky ha rigettato, respinto questo approccio. Ecco, nel momento in cui McConnell parlava, i repubblicani avevano già, pensate, molto presto, perché qualcuno temeva che si potesse fare molto tardi, in realtà già verso le 10:30 di sera si è capito che c'erano già 5 seggi dei 6 necessari per potersi garantire la maggioranza. Ecco, il sesto è arrivato quasi subito dopo, a sorpresa. Tom Tillis, North Carolina, tradizionalmente era stato un seggio democratico, è riuscito invece a vincere e a portare alla vittoria il partito. Poi è arrivato anche il settimo seggio, e come vi dicevo potrebbero arrivarne anche altri. Gli stati dove i democratici hanno perso sono stati tradizionalmente forti per i democratici, stati tra l'altro dove Obama è riuscito a conquistare la maggioranza e aggiudicarsi poi la presidenza. Sto parlando del Colorado, dell'Iowa, del West Virginia, dell'Arkansas, del Montana, del Sud Dakota. Ma non c'è stato solo il voto nazionale, ci sono stati anche risultati, curiosità locali a Washington, la capitale, per esempio, oppure in Oregon c'è stato il voto per legalizzare la marijuana, che invece non è passata in Florida. In Texas c'è un nuovo George Bush, non è George W., non è George Herbert, è George P. Bush, che è il figlio di Jeb, che potrebbe essere candidato alla Casa Bianca. Le donne in congresso sono 100, pensate, nel 91 erano soltanto 32. Ecco, potrei continuare, ma alla fine il risultato di fondo che prevale è il risultato nazionale, e la sconfitta di un leader che aveva dato grandi speranze agli americani. And those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Thank you. God bless you, and may God bless the United States of America. Yes, we can. Grande sogno, grande illusione. Illusione che indebolisce Barack Obama in questi ultimi due anni del suo mandato. L'America comincerà già a pensare alla Casa Bianca del 2016 e questo presidente si troverà a governare pensando molto alla politica estera. Già questo fine settimana partirà, e andrò al seguito di questo suo viaggio, partirà per la Cina, poi per l'Australia, un G20, un vertice APEC a Pechino, ma cercherà il compromesso su alcune tematiche, quali per esempio l'immigrazione, per esempio la riforma del sistema bancario, per esempio un negoziato commerciale con l'Europa che potrebbe aprire i commerci transatlantici e promettere crescita per tutti. Questo non è solo nell'interesse dell'America, dell'Europa, della Casa Bianca, ma anche dei repubblicani. Speriamo che il dialogo avanzi. Sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Queste elezioni di ieri lo dimostrano, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, grande, grande cambiamento, e dunque ispiriamoci a Bob Dylan. The times are changing. I tempi stanno cambiando. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. Oh, the times, they are a-changing. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.